il volume. Sì. Oh, provo a Piatti parlare. posate, Sì. forchette. Sì. Piatti posate, forchette. Però arriva con Eh vabbè, ma ritardo. devi, forse devi settare, no? Settare al massimo il BPM. Prova a parlare. So, piatti posate, bicchieri. Prova a parlare. So, piatti posate, bicchieri. Signora. Signora. Andiamo qua al massimo. La signora. Signora. Andiamo qua al massimo. Ah, vedi? Adesso tu mi hai scritto tu sta roba qua. No, ti ho detto, Ah, vedi? quando io ho Adesso chiuso tu la mi hai scritto. macchina fuori ho scritto. Ah, ok. Mi hai scritto tu sta roba qua. No, ti ho detto, quando io cambio ti viene fuori Tu non scritto. senti? Adesso che hai sentito di Ah, parlare. ok. Senti? Sente niente? Beh, senti qualcosa Tu tu? come hai Sì, ma settato tu sta non qua? senti? No. Adesso per esempio hai parlato. Hai detto Senti? qua. Senti, Sente 240 niente? e 64, sono uguali. Tu come hai settato qua sotto? Che dice Qua sotto vota qua? BPM, vota la settimana, ah, vota in sistema. 240 e 64, Ah, siamo ok, uguali. così praticamente serve Per fare uguali. Cosa significa vota BPM? Vota la settimana. Ah, vota in sistema. Ah, cioè, così L'avevo chiesto praticamente serve 282. No, ma devi dire per. la tua, non devi fare la mia. Perché? Puoi fare uguale tu. Devi farti dire. Io penso che dobbiamo essere allineati. Perché? Però 272 No, tu tu. devi vedere la tua, io devo Perché mettere il in mio, non devi allinearci metterti in questo uguale. modo, Tu tu devi devi fare sentire così, il tuo. vedi. Perché? Tu devi sentire il mio. Però io ci Io sento penso solo il che tuo. dobbiamo essere Come allineati. fai a Perché? dirlo? No, anche perché tu, vedi, io il Perché dobbiamo tu allinearci in sia questo qualcuno modo, che tu sia devi io, il sentire il tempo lì, metronomo io no. devo sentire il Io mio, però io sto sentendo posso solo il sentire tuo, il metronomo io, però io capito? sento un altro Come fai a dirlo? metronomo adesso. No, anche perché tu, vedi, io questo qui che sentiamo è il Ah, tuo, questo è perché io ho mio, il sì, così tu lo metronomo. senti uguale, no? Perché Io dall'altra posso parte attivare il devi metronomo mio, però io sento un vota. altro metronomo adesso. Vediamo. Come sei? 64 e 2 e 5. Mettiamolo uguali, perché d'altra parte vedi, vota, vediamo, come sei? 64 e 2 e 51. Aspetta un attimo. Ok. No. Ok. Non ho sbagliato. Adesso facciamo così. Metti la cuffia. Questo qua. Guest. E questo chi è? Mini bot. Questo qua. Non bot, quello fa tutto. Qua è mini bot, quello che fa No, tutto. pa pa pa. un computer, Cosa sei tu? ninja bot. Guest. E questo chi è? Mini bot. Mini bot, quello fa tutto. Qua è mini bot, quello che fa No, tutto. è un bot. Un computer, ninja bot. Nimbot è un altro che Il vuole bot, essere. no, il bot di. Vedi che si chiama Nimbot il programma. Nimbot. Io sono Miriam, e tu com'è che ti chiami? Guest Zpkpkpk. Nimbot è un altro che Un vuole bot, essere. no, il bot di. Vedi che si chiama Nimbot il programma. Nimbot. Channel 1, Channel 1.